nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, ben ritrovati a Nessuna è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, il programma che parla di donne, di lavoro, di carriera e si batte con vigore contro uno delle più sottili, subdole fregature che ci sono state rifilate negli ultimi anni, il multitasking. Parlando di multitasking, cioè di donne che acrobati fanno mille lavori, mi viene in mente di introdurre subito il filo rosso di questa puntata. Il filo rosso è dedicato alla carriera di ingegnere, che è vista come una carriera molto poco femminile e che però oggi si prospetta come una delle opportunità di carriera e di occupazione più allettanti. Vedremo durante la puntata perché, ne parleremo con i nostri ospiti, ma intanto, prima di cominciare con gli ospiti, il nostro premio settimanale, un premio in cui non si vince niente se non le nostre imperfette chiacchiere. Chi sarà la donna imperfetta della settimana? Per un sacco di ragioni io adesso lancio un'offerta e la dedico alle prime ed uniche 100 chiamate in arrivo. Ho detto 100! Quindi prego gentilmente di mettere in video il numero 100. Non eccolo qua, non appena saranno arrivate 100 chiamate io chiudo i battenti, va bene? Ma che chiudi i battenti? Questa li riapre i battenti. Vanna Marchi torna subito, non solo con un ristorante che ha aperto, un ristorante di lusso, ma anche con programmi TV che le piacerebbe ritornare sulla scena. Ora, è vero che tutti devono avere una seconda chance, nessuno si nega a una seconda chance. È vero che negli Stati Uniti, penso a Martha Stewart, una star della TV e dei fornelli, che fu arrestata per evasione e si è fatta il suo periodo di carcere, poi è tornata ed è tornata anche in TV. Ma qui stiamo parlando di una signora che è stata coinvolta in vari processi, condannata in via definitiva per associazione a delinquere, truffa, bancarotta. Insomma, ovviamente tutti hanno diritto a una seconda chance, ma c'è stile e stile, e soprattutto dopo aver giocato con la credulità di persone deboli, anziane, magari psicologicamente fragili, ecco, bisognerebbe avere un po' di stile, tornare sulla scena magari senza imporsi di nuovo come se nulla fosse. Che ne pensate? Scriveteci, fateci sapere se siete d'accordo con la donna imperfetta che questa settimana abbiamo scelto. Scrivete a nessunaeperfetta@radio24.it o mandateci un sms al 349-238-6666. Commentate su Twitter, lasciate che io vi risponda. Se ci scrivete con l'hashtag Nessuna è Perfetta su Twitter, io di sicuro sarò o d'accordo o in disaccordo, ma comunque in contatto con voi. E adesso, dopo la donna imperfetta, torniamo all'argomento di questa puntata. Le ingegnere salveranno il mondo o comunque salveranno il loro stipendio, visto che pare ce ne sia un gran bisogno, è una delle professioni che hanno più possibilità di trovare adeguata collocazione? Beh, io personalmente ne sono convinta. Capisco anche le ragazze che magari vorrebbero fare ingegneria, ma dicono però è una facoltà faticosa e poi gli ingegneri sono così noiosi, non sono brillanti. Ma sarà proprio vero che non sono brillanti? Noi qui a Nessuna Perfetta abbiamo scoperto un ingegnere elettronico che però, pensate un po', adesso fa il comico. è diventato celebre sul palco di Zelig, lo conoscete come Johnny Groove, la parodia del mondo della notte. Insomma, di chi stiamo parlando? Dell'ingegner Giovanni Vernia, professione comico. Allora, buona domenica Giovanni Vernia. Per l'ingegnere qual è il massimo del godimento? Beh, io mi ricordo l'università, per esempio, il massimo del godimento per gli ingegneri, quelli fuori dagli schemi come ingegneri, era tra una lezione e l'altra, diciamo, nella pausa, invece di andare al bar, di fare le equazioni differenziali, per dire, o le derivate, che sono cose che solo a dirle ti vengono i brividi, invece loro le facevano nell'intervallo delle lezioni. E come erano le tue colleghe studentesse di ingegneria? Ah, ad avercele, magari, perché ingegneria, soprattutto elettronica, è una caserma, praticamente, sono tutti uomini. C'erano soltanto due, mi ricordo in un corso da 400 persone c'erano due o tre donne che praticamente giravano con un Kalashnikov e due pitbull, perché chiaramente avevano gli assalti frontali. Cioè, perciò, tutti voi ingegneri nella pausa pranzo, se non facevate equazioni, stavate lì a cincischiare con loro, ad assalire? No, io siccome ho sempre evitato la concorrenza, andavo a economia e commercio, dove invece c'era grande abbondanza del sesso femminile. Dopo anni di lavoro da ingegnere, sì, ora come comico stai usando quello che tu hai imparato dall'altra parte, in questo mondo, diciamo, di elettronica e di devoti all'elettronica, e invece di proporre dei workshop proponi un workshop. Cos'è? Esatto. Il workshop è un modulo di formazione per i manager delle aziende. Io sono stato manager e quindi ho visto che spesso i manager, soprattutto italiani, si prendono molto sul serio. In una presentazione in pubblico, no, che capita spesso di dover fare, si rompe il videoproiettore. Cioè, la battuta più facile che viene in mente a un manager che magari si è preparato tutto il discorso, però senza quel videoproiettore non è in grado di andare avanti a braccio, è prendersela, fare le battute sul povero tecnico che va a intervenire per salvare la situazione. Se l'intervento si prolunga, la battuta classica che uno riesce a fare, perché è in forte imbarazzo, è cerchiamo di fare entro Natale, no? Perché abbiamo... Sì, questa è una battuta tipica. E tu invece, esatto, che cosa consigli di fare? Beh, in quel caso, per esempio, è un'ottima occasione per spezzare il ghiaccio invece con la platea, cioè per uscire dallo schema, che spesso invece ci dà una marcia in più. Allora, se tu in quel caso prendi mano alla situazione, scendi dal palco, ti avvicini alla gente e dici: ah, che bello, finalmente non vedevo l'ora che si rompesse, perché volevo stringere la mano alla persona in prima fila che mi sta guardando da due ore, eccetera eccetera eccetera eccetera, e vai avanti a braccio e spezzi il ghiaccio. Quali sono i segnali comunque che tu da esperto di workshop riconosci? Ma sai, si vede l'atteggiamento, cioè ci sono persone, io poi le ho vissute lavorando nella consulenza, sono persone che attaccano a lavorare alle 9 del mattino e alle 6 di sera per loro è ancora mezza giornata, cioè, e se tu te ne vai alle 6 di sera, benché tu abbia finito il tuo lavoro, la battuta che ti fanno è: uè Giovanni, oggi mezza giornata? Questa è la roba, classica. No? Classica. E tu cosa rispondevi? Sì, no, io dico no, oggi solo mezza mattina, ho detto, dico io, e me ne andavo. Nel lasciarci, facci un'ultima imitazione del classico capo privo di senso dell'umorismo. Beh, guarda, io ne avevo proprio uno che parlava così, sempre con questo monotono corda delle corde vocali, lo chiamava la moglie, si pronto, sempre con l'auricolare, si pronto, sto lavorando, ed erano le 10:30 di sera. Sto lavorando, ti ho detto che sto lavorando, ti richiamo dopo, ciao. Questo era il rapporto che aveva con la moglie. Lo chiamava a mezzanotte. No, poi dopo, capito, finiva di lavorare, che era una cosa che poteva benissimo rifare, perché io ho avuto la fortuna, anche nella mia vita lavorativa, di condividere casa con il mio capo, perché eravamo in trasferta a Siena ed eravamo stati messi in casa insieme, quindi io vedevo, cioè, capito, avevo la sua vita sott'occhio costantemente, e questa era la sua vita, cioè lui lavorava dalla mattina alla notte e non aveva nessun tipo di rapporto con la moglie, con la famiglia. C'è questa impressione che per il lavoro uno debba sacrificare tutte quante le proprie... E invece ridere fa bene. Ma gliel'hai trasmesso questo senso dell'umorismo un po' o no? Anche convivendo, niente. No, a lui non ci sono proprio riuscito, no. Per lui ero proprio una pecora nera io, quindi... Pecora nera, grazie per essere stato con noi, Giovanni Vernia, comico con un passato da ingegnere, lo vedete sul palco di Zelig come Johnny Groove. Mi vedrete a teatro, dai. E a teatro. Prossimamente. Grazie. Ciao, grazie a voi. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuno è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Vi ricorderete che qualche domenica fa abbiamo parlato di donne chirurgo e anche questa domenica vorremmo un po' stare su questo specifico segmento del lavoro e delle donne che scelgono una formazione scientifica e un lavoro che ha a che fare con questa formazione. Parliamo di donne ingegnere. Pensate che qualche settimana fa Jacqueline Fowler, che è la direttrice di Google.org, mi ha raccontato di come sta cambiando l'atteggiamento delle studentesse americane che cominciano a essere interessate appunto alle facoltà scientifiche molto più di quanto già non siano, quando cominciano a capire che per esempio fare l'ingegnere non significa solo costruire ponti, come eravamo abituati a considerare, ma significa anche per esempio avere un impatto sull'ambiente, migliorare la vita del pianeta e anche la nostra. E dunque sfatiamo il mito che le ragazze non siano portate per la matematica, un mito molto radicato, ma il tema è proprio questo: come può cambiare l'approccio delle studentesse, delle giovani donne rispetto a una professione come quella dell'ingegnere, che è stata per sempre considerata una professione solo maschile e che oggi non lo è. Ed è proprio di questo, di donne, formazione scientifica e delle ingegnere che salveranno il mondo, che parliamo ora con la nostra Sunday Girl. La nostra Sunday Girl della domenica è il ministro dell'istruzione, la ministra dell'istruzione Stefania Giannini, ministra dell'istruzione, università e ricerca, stimata linguista e glottologa, dunque un percorso umanistico, ma sposata con un ingegnere e con due figli maschi che studiano al Politecnico di Milano, giusto? Giusto, buongiorno a tutti. Buongiorno. Tutte. Ma ministro, se invece di due maschi lei avesse avuto anche una figlia e questa figlia avesse voluto fare l'ingegnera, lei gliel'avrebbe consigliato? Ma penso che avrei fatto quello che ho fatto, che abbiamo fatto con i nostri figli, cioè lasciare libero campo alle loro scelte, alle loro decisioni, dalla scuola superiore fino alla facoltà universitaria. Quindi la libertà e il cercare di non condizionare credo che sia la precondizione perché anche le ragazze si sentano veramente in possesso delle loro capacità, dei loro talenti, che non sono assolutamente orientati per natura alle scienze umanistiche. Infatti, com'è la situazione oggi in Italia, dove il gap rispetto alla scelta di facoltà scientifiche è serio sia per ragazzi che per ragazze? Ma guardando i numeri degli ultimi anni c'è un segnale molto positivo, secondo me, ma oggettivamente, perché cresce il numero delle immatricolazioni femminili nella facoltà di ingegneria e in generale nel campo delle scienze cosiddette dure, pur con numeri sensibilmente più ridotti rispetto a quelli maschili. Faccio un esempio concreto: ingegneria oggi ha circa 220.000 iscritti, meno di un terzo, ma poco meno di un terzo sono ragazze e i due terzi sono maschi, però 3-4 anni fa c'era un numero assolutamente più ridotto. Secondo me si cominciano ad abbattere alcuni stereotipi, perché sa, alla base di tutto c'è sempre un dato culturale, no? E il dato culturale è il seguente: uno, le ragazze sono meno portate per le materie scientifiche, anche perché le materie scientifiche sono ritenute, a torto ragione, le più difficili, cioè sì, sono gli ostacoli più alti, le asticelle più alte da sormontare. Due, e questo è il dato che magari si esplicita meno, ma che almeno nel nostro paese e in tutta l'area, direi, euro-mediterranea continua a permanere. I lavori al maschile nella vita poi consentono meno di conciliare lo schema di vita di una ragazza che poi vorrà e potrà, auguriamocelo, avere figli, una famiglia. Questi sono tutti e due pregiudizi. Stiamo al primo. Sono due stereotipi, ecco. Sì, io non so se definirli pregiudizi, sicuramente sono due stereotipi culturali. Di chi è la colpa del fatto che gli studenti italiani in genere sono poco brillanti nelle materie STEM, scientifiche, matematiche? Di fanciulla, sì. Difficile capire chi ha, diciamo, c'è una storia culturale, sì, nel nostro paese. Il discorso lo possiamo fare a vari livelli. Ecco, io in sintesi dico questo. Alle ragazze dico: ragazze, abbiate il coraggio di osare. Primo, perché le mete difficili sono alla portata di tutti noi e di tutte noi, purché ci sia impegno, purché ci sia una predisposizione naturalmente, certo, per le cose che si fanno e la passione e la determinazione nel farle. Alle famiglie, ai genitori, ecco, mi permetto di dire quello che ho detto prima: lasciamo i nostri ragazzi e le nostre ragazze, i nostri figli, nella piena libertà di misurare il loro talento. E la scuola deve servire soprattutto a questo, deve servire a far sì che ciascun ragazzo e ciascuna ragazza capiscano qual è la loro inclinazione, la loro attitudine, insomma il loro obiettivo, no? Al di là delle materie che si studiano a scuola. In Inghilterra sono state introdotte 2 ore obbligatorie di programmazione. E da noi, ministro? Da noi non vorrei ora entrare nello spirito di accesa competizione, ma siamo stati un pochino più bravi per una volta dei nostri amici inglesi, perché dopo gli Stati Uniti siamo il paese che ha più investito, esattamente lo scorso anno, nel programma di coding, programma Il Futuro, l'abbiamo chiamato così in italiano. Abbiamo coinvolto 5.000 classi lo scorso anno, con l'obiettivo di raggiungere nel corso del prossimo triennio di arrivare a 1 milione di studenti, soprattutto nella scuola primaria. Quello che invece è importante fare per stimolare nei maschi e nelle femmine, questo per noi in Italia, sì, è un'urgenza, direi, uguale, la sensibilità, la voglia, la vocazione per le scienze è di naturalmente dare più importanza alle materie scientifiche nel corso degli studi. E d'altra parte siamo figli di una tradizione idealista, no? Noi siamo, insomma, figli della riforma Gentile, che ha fatto, certo, ottime cose, ha dato i licei classici, ha dato era un altro secolo. Non dobbiamo perdere il nostro profilo. Infatti, se gli americani parlano di STEM, Science, Technology, Engineering e Maths, noi parliamo di STEAM, cioè tutto quel che ho detto più arts, che è la, certo, nostra dimensione creativa, che è il nostro codice genetico. Ma dobbiamo dire soprattutto alle ragazze: non vi spaventate di fronte a un'equazione matematica che ha la stessa bellezza di un esame trovirginiano. Certo, bisogna, ecco, saperla spiegare quell'equazione matematica, però, professoressa. Io ho ricordi di lezioni di matematica in cui, nonostante la buonissima volontà di una straordinaria insegnante, comunque era come una specie di tenda che si calava davanti, certo, ai miei occhi, e non capivo nulla. Purtroppo anch'io, lo devo confessare, tant'è che ho fatto, l'ha detto lei ed è giustissimo, un corso di studi e poi anche ho avuto la fortuna di farne un mestiere, una scienza che è umanistica ma che è la più scientifica tra le umanistiche, quindi ho la linguistica, insomma, una scienza formale, quindi ho recuperato questa passione per la quantità successivamente. Mi ha detto, e lo citavo prima, la direttrice di Google.org, Jacqueline Fuller, che le ingegnere salveranno il mondo, perché fare l'ingegnere non significa solo costruire ponti, significa occuparsi di ambiente, significa poter fare davvero bene al nostro pianeta e alla vita di tutti i giorni. Quando questo concetto si introduce nella testa delle studentesse, cambia anche l'approccio verso l'ingegneria, ma soprattutto mi sembra che gli ingegneri trovino lavoro in Italia e fuori. Ma è sicuramente una delle facoltà che ha uno sbocco occupazionale più immediato e di maggiore soddisfazione, questo in tutto il mondo, proprio per quel che dice lei, perché le applicazioni sono ormai tantissime e non è più anche lì la figura tradizionale dell'ingegnere, no? Della generazione dei nostri padri o dei nostri nonni. Devo dire quello che è fondamentale nei corsi di studio scientifici è il metodo di studio, no? Ingegneria, così come matematica, così come fisica, oltre ai contenuti disciplinari, danno un metodo quantitativo, un approccio quindi legato ai dati, no? Io certo. dico delle cose perché ho degli elementi oggettivi, li posso misurare, li posso verificare ed eventualmente li posso confutare se trovo prove contrarie. Ecco, questo forse è l'elemento più importante che la scuola può e deve dare ai ragazzi e alle ragazze, e abbattuti o messi fortemente in discussione questi stereotipi da cui siamo partiti e cercando di far vedere la bellezza della scienza in tutte le sue componenti, quella della natura e quella della cultura, io sono convinta che questi numeri cresceranno e che le ragazze capiranno quanto è bello anche lanciarsi, diciamo, nel corso di studi. Abbiamo cominciato con i numeri che lei mi ha detto essere aumentati nel numero di matricolazioni delle ingegnere. Siamo a 50.000 iscritte. Siamo a 50.000 iscritte complessivamente, a prossimo per qualche centinaio. Sì, in tutte le facoltà scientifiche. In tutte le facoltà di ingegneria. Ingegneria. No, stiamo parlando solo di ingegneria su 220.000 plafond totale. Bene, allora speriamo di vederle presto in azione e che ci arrivino tutte alla laurea. Puntiamo al raddoppio nel giro di pochi anni. Ci risentiamo. Speriamo. Per grazie, buona domenica, grazie, ministro. Grazie a lei, buona grazie. Giornata. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. E sapete che questo è il momento della domanda della settimana. Anche voi potete inviarci i vostri problemi, segnalarci una questione che vi angustia sul mondo del lavoro potete farlo appunto inviando le vostre mail a nessunaeperfetta@radio24.it. Così ci scrive una studentessa questa settimana. Sono iscritta al liceo classico, vivo in un paese della provincia di Salerno. Mi sono accorta che in generale gli ingegneri, si dice, hanno maggiore possibilità di trovare un'occupazione. E dunque, nonostante gli studi classici fatti, comincio a pensare che mi piacerebbe iscrivermi alla facoltà di ingegneria. Quando l'ho comunicato ai miei genitori, non ho visto reazioni entusiaste. Probabilmente perché immaginano che debba andare via dalla nostra regione, oppure perché si sono spaventati vista la lunghezza del percorso di studio. Mi rivolgo a lei per un consiglio, perché non ho nessuno con cui confrontarmi. Secondo lei faccio una sciocchezza? Giulia. Giulia, sono convinta che attorno a te ci siano delle persone che possano darti dei consigli, un insegnante per esempio, o un'amica o un amico dei tuoi genitori, adulti che possano vedere lontano. Comunque qui a Nessuna è Perfetta siamo ben contenti che tu abbia pensato di chiedere consiglio a noi, e guarda, hai a disposizione adesso i consigli di due persone veramente qualificati per dartelo. Anna Zattoni, direttore generale di Valore D, l'associazione nata nel 2009 per valorizzare il talento femminile, che oggi riunisce 145 imprese italiane, 950.000 addetti, per il 50% donne. Buona domenica, Anna Zattoni, che buongiorno. È un ingegnere, appunto. Buongiorno e buona domenica. E l'altra persona che ti darà dei consigli, io credo davvero con passione, con la passione che ha messo una settimana fa nell'organizzare insieme a Federmeccanica un bellissimo convegno a Firenze in collaborazione con Valore D, è proprio puntato a creare creare un network di imprenditrici, manager, lavoratrici, studentesse che valorizzino il talento femminile nel settore metalmeccanico. Ecco, la persona che ha voluto tutto questo insieme ai suoi, a tutto il suo team, è Fabio Storchi, presidente di Federmeccanica. Buongiorno e buona domenica anche da parte mia. Cominciamo da lei, presidente Storchi. Che cosa consiglia a Giulia? Le conviene fare ingegneria o no? No, io dico a Giulia sì, assolutamente sì, è la scelta corretta. Basta considerare che nell'Unione Europea serviranno 1 milione di ingegneri nei prossimi anni per sostenere Industria 4.0, che viene detta anche la quarta rivoluzione industriale e che cambierà il modo di fare industria. Quindi serviranno tantissimi ingegneri elettronici, informatici, per sostenere questo sviluppo e questo processo di sviluppo delle industrie, dei processi produttivi nelle nostre fabbriche. Questa è la prima considerazione, quindi è una scelta corretta, anche se si considera che le conoscenze matematiche, fisiche e chimiche, che appunto lo studio di ingegneria danno, consentono appunto a queste persone di portare avanti tutto quello che attiene la progettazione, la realizzazione, la gestione di dispositivi, di macchine, di strutture. Sì, si apre un ventaglio, no, di prospettive. Ecco, assolutamente. Volevo chiedere ad Anna Zattoni, che è ingegnere, quando annunciò in casa che voleva fare ingegneria, come la presero? E perché, secondo lei, direttore generale di Valore D, quindi con un'apertura su tante aziende e anche su tante giovani donne, perché Valore D fa anche un lavoro di mentorship su questo, secondo lei perché c'è ancora tanta resistenza nelle famiglie italiane quando una ragazza vuole fare una facoltà scientifica? Allora, se posso raccontare la mia storia, quando ho deciso di scegliere ingegneria e avevo avuto alcune incertezze all'inizio, era una scelta più scontata, poteva essere economia e mi ero indirizzata inizialmente a quello e poi ho deciso per ingegneria, diciamo che la risposta è stata il silenzio. Anche il silenzio va bene, perché almeno non ho avuto dei detrattori. Ma però non hanno fatto salti di gioia. Devo dire che avevo già un po' aperto la strada quando avevo deciso di fare il liceo scientifico, perché a casa mia tutti avevano fatto il liceo classico, quindi il liceo scientifico era già un'estrema novità. Aperto gli indugi, rotto gli indugi lì, poi la scelta di ingegneria. Lo rifarebbe? Si è rivelata la scelta giusta della sua vita fare ingegneria? Lo rifarei, perché ho affrontato un percorso che mi è piaciuto molto, durissimo sicuramente, ma mi è piaciuto molto, mi ha dato tanti strumenti che oggi, pur facendo un lavoro completamente diverso da quello dell'ingegneria, sono assolutamente utili. Lei, presidente Torchi, diceva ci vorranno 1 milione di ingegneri nell'Unione Europea. Queste previsioni tengono conto del fatto che in Italia di ingegneri ce ne sono oggi relativamente pochi? Tengono conto del fatto che la domanda dell'industria, della società in generale, rispetto a questa Industria 4.0 riguarderà e toccherà un numero di ingegneri così elevato. E quindi se non ce li abbiamo indietro, evidentemente il percorso diventa ancora più arduo. Però bisogna ricordare, anche a supporto della scelta di Giulia, che negli ultimi anni, secondo il rapporto dell'OCSE, quello del 2014, c'è un forte incremento di laureate in materia STEM, quelle che inseriscono evidentemente anche l'ingegneria. Ce lo diceva anche la ministra Giannini. Ce lo diceva la ministra Giannini, che è stata ospite nella prima parte di Nessuno è perfetta. Sì, il 40% delle nuove lauree infatti viene conseguito dalle donne in Italia. E questo è un numero sorprendentemente alto anche rispetto a Germania e Regno Unito e gli altri paesi dell'Unione Europea. Anna Zattoni, una dei pregiudizi, ma magari confermato anche della realtà, che non solo studiare ingegneria è complesso e duro, e quello ce lo confermava anche lei, ma che è complicato poi gestire una vita familiare e magari un lavoro che ti porta sulle piattaforme petrolifere in Norvegia. Vogliamo spiegare meglio a chi ci segue anche quali sono le varie, diciamo, i vari filoni di ingegneria. Non è che si costruiscano sempre soltanto ponti come era in passato. Allora, ci sono tantissimi percorsi nell'ambito dell'ingegneria. Io devo dire, faccio outing, mi sono laureata ormai 20 anni fa e quindi c'è stato in mezzo anche tutta la riforma dell'università e degli ordinamenti, si sono aperti nuovi percorsi anche legati a nuove professionalità, quindi non necessariamente ingegnere vuol dire andare in piattaforma o andare nei cantieri, ma attraverso una laurea in ingegneria in realtà si possono seguire molti percorsi. Oggi ci sono veramente molte opportunità e quindi credo che per un ingegnere, come per un qualunque professionista, valgano le stesse sfide, e per una donna in particolare bisogna sapersi organizzare, bisogna trovare un compagno che invece che aggrapparsi a te ti sostenga in questo percorso, e bisogna scegliere anche quelle aziende che oggi si sono dotate di strumenti e di percorsi giusti per riuscire ad affrontare le sfide che sono magari più tipiche di una donna. Senta Presidente Storchi, perché avete voluto questo convegno con Valore D, quello che si è tenuto a Firenze una settimana fa, e questo network femminile Fabbrica 4D, che significa e come mai appunto dentro Federmeccanica, che è fatta di aziende popolata da manager uomini, ingegneri appunto per lo più uomini, quante donne ci sono nella vostra compagine manageriale, nelle vostre aziende? Sono ancora troppo poche, ed è il motivo per cui abbiamo deciso di organizzare questo convegno e di unirci a Valore D, ma la motivazione profonda che ci ha indotto a organizzare questo è che nella trasformazione profonda che stiamo vivendo nelle nostre imprese, una trasformazione che sta cambiando il modo di fare azienda e si trasforma in continuazione, noi riteniamo che le donne possano e devono giocare appunto un ruolo molto significativo, perché non sono condizionate da modelli ostili di lavoro consolidati nel tempo e che si sono sclerotizzati. Noi pensiamo che le donne abbiano questa capacità di guardare da prospettive diverse e sono in grado sicuramente di poter modificare, trasformare le attività di un'impresa con una capacità superiore anche agli uomini, ai maschietti che hanno finora dominato le attività nel nostro mondo. Ecco, Valore D ha molte ingegnere tra le sue associate, ne citiamo qualcuna, dalla nuova amministratore delegata di RCS, Laura Cioli, a Simona Paravani, che è un ruolo importante a Londra. Barbara Poggiali, sì, del marketing strategico di Poste Italiane. Sì, sì. Sicuramente nell'ambito del management di molte aziende di Valore D troviamo degli ingegneri. Oggi in Italia, leggevo in uno studio del Centro Nazionale degli Ingegneri, ci sono 100.000 donne laureate in ingegneria. E nel 2004 erano 40.000. Quindi, per chiudere, a Giulia, date il consiglio di insistere e di non avere paura? Qual è lo scoglio iniziale di fare ingegneria che mette paura? Forse per chi parte dal liceo classico c'è un po' più di fatica, perché ci sono alcune materie che al liceo classico non si affrontano, ma il metodo di studio che si apprende è sicuramente utile, quindi a parte qualche fatica il primo anno, poi avrà sicuramente un percorso di studio di successo, e quindi le direi che l'importante è che sia una scelta responsabile. Santa Presidente Storchi, le donne ingegnere vengono pagate meno degli uomini? La Zattoni fa sì col capo. Questa è un'altra caratteristica italiana e in certi casi è così. E che cosa state facendo per cambiare questa cosa che insomma andrebbe cambiata rapidamente? Cerchiamo di disegnare nuovi profili professionali all'interno dell'azienda che consentano anche alle donne di poter accedere ai piani superiori dell'organizzazione. Bene, vi teniamo d'occhio, Presidente Storchi. Grazie. Grazie, buona domenica a lei, buona domenica ad Anna Zattoni, direttore generale di Valore D. Noi torniamo tra pochissimo con la nostra coach. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuno è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Avete sentito qual era il dubbio della studentessa Giulia, che è incerta se concluso il suo periodo di studi liceo classico le convenga o meno iscriversi a ingegneria. Ma in generale, per affrontare quella che è una scelta importante che può definire il percorso di una vita, cioè quale facoltà, che indirizzo prendere, vale la pena di confrontarsi con chi di professione dà consigli sul lavoro e sulle carriere, sui percorsi. In questo caso con la nostra coach Maria Serena Ciambellotti, che saluto. Buona domenica e bentornata a Nessuno è Perfetta. Grazie Maria, buona domenica anche a te e a chi ci sta ascoltando. Ecco, dicevamo prima con il presidente di Federmeccanica Storchi e con la direttora di Valore Generale di Valore D, Anna Zattoni, che è rimasta con noi, che oggi la prospettiva di iscriversi a ingegneria apre anche ottime possibilità sul fronte del lavoro. Ma ci sono dubbi, perché è una facoltà complicata, difficile. È una sfida e tante volte le nostre paure hanno la meglio rispetto al coraggio. In generale, che cosa consiglieresti a chi deve affrontare, appunto, deve prendere una decisione e non è sicuro ancora di poter sostenere un percorso così complesso come studiare ingegneria? Certo, guarda, intanto chi già si sta ponendo, no, con quest'ottica di aver individuato nella laurea in ingegneria una buona possibilità di sbocco sul mondo del lavoro, vuol dire che ha già comunque le antenne tese ad ascoltare proprio quelli che sono un po' i trend. Indubbiamente basta leggere qualunque annuncio di ricerca di personale, quella è una strada che proficua. Naturalmente la domanda che inviterei a porsi, quindi sia Giulia che a quanti siano indecisi sul percorso universitario, è quali sono le risorse interne sulle quali so di poter contare nell'affrontare quindi un percorso di studi con una sua complessità come quella di ingegneria. Quando anche, parliamo di risorse interne, che intendiamo? Intendiamo ad esempio rispetto al percorso che ha fatto finora, quindi ha già 5 anni, no, di scuola impegnativa come un liceo classico al suo attivo, potersi osservare come un po', no, da un punto di vista esterno e dire beh, dunque, quando ho cominciato, non so, a studiare materie nuove, complesse, come filosofia, come mi sono posta. Che capacità di concentrazione ho, per esempio? Che capacità di concentrazione, che curiosità verso il nuovo, quanta determinazione, laddove ho incontrato le inevitabili difficoltà, affrontando quindi materie che sono meno congeniali rispetto a quelli che sono i propri talenti innati. Ma come si fa a darsi una risposta? Sai, quando una ragazza ha 19 anni, 20 anni, magari non è in grado di pesare davvero le sue qualità e magari se le sottostima. Che è abbastanza tipico della giovane età. Interfacciarsi con i genitori, con i quali sicuramente, nei quali si può sicuramente trovare persone che hanno a cuore il bene della ragazza e che la conoscono. Che la conoscono profondamente. Dall'altro canto, insegnanti con i quali si è instaurato un buon rapporto e, perché no, adulti di riferimento del proprio entourage con i quali poter avere quindi un dialogo franco e anche poter entrare nel merito di nello specifico delle loro proprie professioni. Siamo in chiusura, abbiamo veramente un minuto. Quale ultimo consiglio la nostra coach darebbe a Giulia? Allora, riprendendo una parola che hai detto tu Maria, cioè il coraggio di fare certe di intraprendere certe decisioni, analizzando proprio l'etimologia di questa parola, mettere il cuore nelle proprie azioni, quindi sentire là dove batte il cuore, là dove sentiamo di poter esprimere passione, perché poi quello che veramente farà la differenza per noi stessi e per chi ci sta attorno quando ci esprimeremo dal punto di vista professionale è dove potremo esprimere la nostra passione. Anna Zattoni, sentendo i consigli della coach e mettendoti un po' tu nei panni della nostra Giulia, che cosa chiederesti se avessi tu 20 anni e una coach davanti tutta per te? Chiederei di aiutarmi a capire quali sono i miei punti di forza, perché questo effettivamente a quell'età è fondamentale e credo i genitori sì, sono un punto di riferimento importante, ma sono anche genitori e quindi il loro consiglio, il loro giudizio è filtrato da i miei genitori mai mi avrebbero spinto a farla giornalista, e per quindi, dire, perché si preoccupavano di una professione considerata non proprio sicurissima. E quindi avevano ragione. Le persone che ci stanno intorno sono le migliori persone a cui chiedere, proprio insegnanti sicuramente. Io ricordo la mia insegnante di matematica che ruolo ha avuto in questa scelta, e anche i genitori di miei compagni che avevano intrapreso la professione di ingegnere. Quindi questo è fondamentale, avere fiducia in se stessi, perché è come preparare una qualunque sfida, una gara sportiva o un'arrampicata in montagna. Bisogna conoscere il percorso che si deve affrontare e mettere in campo le forze necessarie per farlo. Maria Serena Ciambellotti, ma le scuole ogni tanto vi invitano voi coach a parlare agli studenti? Ora, noi coach siamo abbastanza nuovi sul mercato, quindi le scuole che arrivano con prudenza, io dico anche con prudenza un po' dopo, sono sincera, no, non mi è ancora capitato di essere invitata da scuole pubbliche. Scuole private sì. Questo non vuol dire che non ci siano tanti insegnanti di scuola pubblica disponibili anche a farsi carico di guidare, no? Un gruppo di studenti interessati. È anche il loro lavoro, certo. Sì. Diamo un consiglio all'insegnante che appunto nell'ultimo anno o negli ultimi due anni di un istituto superiore si sente dire: ma prof, secondo lei che cosa mi conviene scegliere all'università? E spesso il dilemma, no, è seguire la passione o guardare a quanta occupazione offrirà quello specifico percorso di studi. Io fossi un insegnante, dove ho una piena fiducia negli insegnanti per storia familiare, direi, cioè farei questa domanda al mio studente: a cosa sei disposto a rinunciare per raggiungere il tuo obiettivo? E quindi, perché comunque si tratta anche, no, di ogni scelta una rinuncia, quindi mettere in cantiere dei piccoli o grandi sacrifici per andare verso una strada, posto che ritengo veramente, sono pienamente convinta del fatto che laddove si possa esprimere una passione, quindi un talento, inviterei appunto i miei studenti là dove batte il loro cuore a seguirlo il cuore. Grazie Maria Serena Ciambellotti, la nostra coach di questa domenica. Grazie ad Anna Zattoni che si è fermata con noi, direttore generale di Valore D. Grazie a voi che ci avete seguito. Tutte le vostre domande, i vostri dubbi, così come ci ha scritto Giulia, vi aspettiamo a Nessuna è perfetta senza accento @radio24.it. Potete mandarci un sms al 349-238-6666, commentare su Twitter con l'hashtag Nessuna è perfetta, e siamo naturalmente anche su Facebook. È domenica, fate una cosa per volta e ricordatevelo, il multitasking è una fregatura.